me. Il paradiso verde, lo sguardo si perde, la mente non serve, rimane solo il corpo nell'aria armonia. La melodia del vento, tormenti porta via, isolato dal mondo. Questo mondo pieno d'odio, mi affido a lei. L'unico modo di trovare un po' di pace, perché ovunque la cerco non ce ne son tracce. Un po' di un abiro, solo un pensiero. Il rap, il mio suono, se ne sono fiero. È un siero, un magico veliero, ti porta dove vuoi nell'universo intero. Dal grande impero a un cimitero, mettici passione, sempre sii sincero. Tu non ci credi, ma uomo è vero, volare si può, basta volerlo, yeah. Volare si può, non dire. L'unico limite qua è l'infinito, perché c'è un mondo al di fuori di questo. Il campo è sempre lo stesso gesto, la mano che scrive, idea la rinfusa. Poco fa ogni speranza era rinchiusa, per anni attaccato a questa terra, con questo ritmo dotato che lenta. Via dalla città che soffoca, per una volta via dalla vita loca. La soluzione per il mondo sta in aria, dove l'ingresso è vietato a qualunque para. Se la perfezione esiste qua ci va vicino, più di ogni droga alzo lo spino. Spezzo con un urlo questo silenzio, abbandono tutto e nel mio mondo sterzo. Volare si può, non dirmi di no. Di fronte a me il paradiso verde, nel cielo la pace troverò.